la strada in Palermo. Non c'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Caponnetta? Perché è finito tutto? Perché non mi faccio dire altro. Non mi faccio dire altro.